Gaza ha aperto una frattura nella storia che studiamo, nelle parole che usiamo, nei futuri che immaginiamo. In Europa, tra i miei più traditi e i movimenti che resistono, qualcosa nel modo di fare storia è cambiato. Questo è Fare Storia ai tempi del genocidio a Gaza ed è un tentativo di tenere insieme metodo, dolore e impegno politico. Questo libro tratta di due avvenimenti molto dolorosi e traumatici della storia ebraica palestinese, l'Olocausto e la Nakba. Entrambi gli eventi, differenti per natura e grado, hanno avuto un impatto decisivo sulla storia successiva, sulla coscienza e sull'identità dei due popoli. Per i palestinesi, la Nakba non si limita alla sconfitta, all'espulsione dalla Palestina, alla perdita della patria, e nemmeno al fatto di essere divenuti un popolo che vive prevalentemente da rifugiato fuori dalla propria terra. E come minoranza frammentata che vive sotto occupazione nella propria terra. La Nakba rappresenta anche la distruzione di centinaia di villaggi e quartieri urbani, insieme al tessuto culturale, economico, politico e sociale del popolo palestinese. È la colonizzazione in corso della Palestina che continua sino ad oggi attraverso pratiche e politiche coloniali, come gli insediamenti ebraici, l'acquisizione illegale di terre, l'imposizione dell'assedio a Gaza e l'evacuazione di villaggi. Così inizia il libro Olocausto e Nakba, narrazioni tra storia e trauma, curato da Bashir Bashir e Amos Goldberg. Il primo, un teorico politico palestinese, il secondo, uno storico israeliano. Un testo complesso, di cui abbiamo parlato con Simon Levis Sullam, storico dell'Olocausto dell'Università di Venezia. Penso molto complicato, ha più voci, però può essere un punto di partenza, va letto molto accuratamente perché letto superficialmente può sembrare stabilire delle analogie, dei nessi che storicamente non tengono, diciamo, perché la Nakba è stata una gigantesca tragedia, ma non è Auschwitz, è una cosa diversa, ogni evento storico ha delle sue caratteristiche specifiche. In questo caso sono in qualche modo intrecciate nelle memorie dei due che si scontrano in Palestina e quindi può essere interessante il confronto, ma capire come queste due tragedie agiscono sulla coscienza e l'immaginario. Ovviamente non stabilisce un'analogia diretta tra i due eventi, ma cerca di studiare in che modo la memoria di questi due eventi traumatici fondativi ha per i due popoli, il popolo ebraico e in particolare per quella parte che ha fondato Israele e il mondo palestinese, nel caso della Nakba, e propone una soluzione binazionale per un futuro Stato israelo-palestinese. A partire da questo libro si possono studiare le differenze dei due eventi, ma anche capire come la memoria opera in parallelo tra il popolo palestinese e quello israeliano, accomunati da un evento traumatico che segna e fonda la percezione di sé di ognuno dei due popoli. E se l'Olocausto è l'evento che simboleggia quasi il genocidio per eccellenza, usare la parola genocidio oggi per Gaza non è riconosciuto. Lo stesso Amos Goldberg lo dice nel documentario Disunited Nations diretto da Christophe Guterres. E il genocidio non è un evento isolato, è un processo in evoluzione. Lo vediamo in moltissimi luoghi. Il trattamento riservato dai sovietici all'Ucraina è un processo genocida. I Rohingya, quando il Myanmar, dopo quello che sarebbe stato definito un attacco terroristico, uccise circa 10.000 Rohingya e l'America pensò che si trattasse di genocidio, lo riconobbero. Ed è una tale ipocrisia perché le prove, la portata della distruzione e le uccisioni, tutto è espressione di intenti. Le crescenti strutture di annientamento sono molto più evidenti a Gaza. Però, sempre partendo dal libro di Goldberg e Bashir, lo storico Simon Levis Sullam ha una visione diversa sull'uso della parola genocidio come termine storico per quel che sta succedendo a Gaza, indice del fatto che quel che succede ora a Gaza sta facendo saltare i paradigmi e le letture, che per trovare un accordo nella storicizzazione di un evento c'è bisogno di tempo e di distacco dalla tragedia in corso. Le due esperienze storiche e poi studiarne i possibili intrecci. Credo che valga la pena anche cercare di riflettere, come dicevo, perché Gaza, perché appunto mentre ci sono decine di altri conflitti in corso, anche di portata analoga, diciamo, è assolutamente legittima la preoccupazione che Gaza suscita, ma quello che è implicato sono anche una serie di simboli che riguardano il ruolo dell'Occidente, l'America, gli ebrei, Israele, i palestinesi e poi la Terra Santa, le grandi religioni monoteiste. caratteristiche, c'è un intreccio simbolico esplosivo che però rischia anche di essere manipolato anche dalle piazze e strumentalizzato, perché esistono strumentalizzazioni anche a sinistra, io ne ho detto e scritto, anche la parola genocidio che può essere legittimamente applicata, allo stesso tempo viene strumentalizzata e rovesciata addosso al mondo ebraico. In modo anche strumentale, innanzitutto perché non tutti gli ebrei sono israeliani, e secondo perché appunto esiste anche un uso politico dell'accusa di genocidio, diciamo, indipendentemente dal fatto se quello a Gaza è un genocidio o meno. Il problema è che gli ebrei hanno anche subito uno dei principali genocidi della storia. Insomma, c'è un intreccio abbastanza evidente e un uso di parole contundenti che sono usate più come slogan che come categorie politiche vere e proprie. Politica si può dire tutto, però credo sia interessante anche interrogarsi sul perché lo si dice, come lo si dice, cosa si intende veramente, che cosa si sa di quello che si sta dicendo. E quello che avviene a Gaza da più parti è stato chiamato un genocidio. Dobbiamo tenere presente che i genocidi hanno alcune caratteristiche di fondo affini, almeno per come vengono definite da un punto di vista giuridico, ma storicamente possono generalmente essere e sono degli eventi differenti. Sicuramente Gaza e anche la politica violenta di Israele dopo 7 ottobre non possono essere paragonate ad Auschwitz, anche se si tratta di due genocidi, sono eventi storici radicalmente diversi, non solo sul piano quantitativo, ma anche semplicemente, per così dire, semplicemente nella modalità in cui quegli eventi si sono svolti. Quindi credo che bisogna fare da un lato una chiara distinzione tra gli eventi storici, dall'altro lato, più che cercare delle analogie, interrogarsi su quello che la nostra coscienza sente oggi di fronte alla violenza e se può usare anche il giorno della memoria per riflettervi. Non credo che il giorno della memoria sia forse il giorno più adatto per questo tipo di flessione, perché si crea anche una gigantesca confusione. E del resto i Gaza e i giornali parlano quasi quotidianamente delle vicende della Shoah in Italia e in Europa non si parla con la stessa frequenza. Sarebbe importante invece che se ne parlasse con chiarezza, soprattutto in Italia rispetto alle responsabilità italiane e rispetto al fatto che l'Italia ha dato all'Europa il fascismo e oggi chi ci governa erede di quella tradizione. Il giorno della memoria, 27 gennaio, è ora passato, ma rimane la questione di come parlare e vivere il giorno della memoria con Gaza ancora in corso, ormai da 3 anni, a cui si è aggiunta, oltre all'invasione dell'esercito israeliano, al blocco di aiuti umanitari, cibo e medicine, anche una tregua farsa. Credo che da storico e da studioso della memoria ci sia da un lato una specificità della data che è stabilita per legge come il ricordo di quello che è avvenuto nella Shoah e anche di diversi gruppi, non solo gli ebrei, ma altri perseguitati, inclusi secondo la legge italiana i militari italiani che vennero internati in Germania, e poi il ricordo di coloro che si prodigarono per il salvataggio degli ebrei. Quindi da un lato ci sono le vicende, diciamo, specifiche della Shoah, dall'altro c'è la necessità o probabilmente l'esigenza, che non è prescritta per legge ma che probabilmente va raccolta sul piano civile, di non tanto di attualizzare quanto di dare un'interpretazione, io ho sostenuto anche altre volte, universalistica del giorno della memoria. Cioè, il giorno della memoria funziona e ha senso se ricorda il suo specifico e allo stesso tempo ci si interroga su quello che avviene intorno a noi. Questo è naturalmente problematico perché la giornata della memoria ricorda degli eventi specifici e allo stesso tempo interroga le nostre coscienze sul cosa fare e come fare perché quel tipo di eventi non si ripetano, o eventi analoghi o eventi violenti legati a politiche dell'identità, diciamo, in termini generali. Quindi io, ad esempio, un anno fa per la rivista online Le parole e le cose ho scritto un testo che ancora sottoscrivo e probabilmente scriverò qualcosa di analogo quest'anno, in cui dico che si può parlare anche di Gaza nel giorno della memoria. Naturalmente ci sono tanti collegamenti che l'immaginario pubblico fa tra Gaza e il giorno della memoria, perché sono implicate diversi simboli che in parte sono collegate, cioè il ruolo degli ebrei, la nascita dello Stato di Israele, il ruolo delle democrazie occidentali, diremmo la buona e la cattiva coscienza dell'Europa, perché Israele e la Palestina rappresentano. Israele è stato fondato per un voto delle Nazioni Unite che vide all'epoca congiunte nel 1948 sia l'Unione Sovietica che gli Stati Uniti, per semplificare, il mondo intero di fronte alla Shoah. volle creare questo spazio e poi ne nacquero una serie di rivolgimenti legati al fatto che l'espartizione di quel territorio voluta dalle Nazioni Unite in una parte araba e una parte ebraica venne solo in parte accettato. Ma non c'è solo la ricostruzione storica, c'è anche l'uso strumentale della memoria storica dell'Olocausto per silenziare le voci di dissenso, come di fatto sono per noi i disegni di legge che equiparano le critiche ad Israele con l'antisemitismo. Io sono stato audito nei giorni scorsi dal Senato, la Commissione Affari Costituzionali, assieme ad altri esperti, il sottoscritto come storico dell'antisemitismo, per un parere su questi disegni di legge. In realtà non ci sono solo Gasparri e Del Rio, ma ce ne sono anche altri, a firma Lega, a firma Scalfarotto, ci sono almeno quattro e altri partiti stanno elaborando altri documenti. Io sono intervenuto anche come sottoscrittore alcuni anni fa della Jerusalem Declaration on Antisemitism, che è un documento internazionale preso da un gruppo di storici e sottoscritto da ormai quasi 300 esperti di storia dell'antisemitismo, di storia ebraica e di storia della memoria, che diciamo, critica la definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Network, che è una definizione di antisemitismo adottata in diversi paesi, soprattutto europei, ma anche negli Stati Uniti, che è piuttosto basica nella definizione di antisemitismo, ma ha allegato 11 esempi antisemitismo, 7 dei quali sono considerati critiche di Israele. E quindi la Jerusalem Declaration ha messo in luce e cercato di criticare l'uso politico che attraverso questa AIRA definition si è fatto, può fare e si rischia di fare anche in Italia, della lotta all'antisemitismo, lotta legittima, che però è strumentalizzata nel momento in cui è volta a silenziare le critiche alle politiche di Israele e del governo di Israele. Io ho sostenuto sulla base di uno libro che ho pubblicato nel 2008 dalla Terza, che si intitola L'archivio antiebraico, il linguaggio dell'antisemitismo moderno, che l'antisemitismo è una pratica discorsiva, è anche una pratica politica naturalmente, è anche una pratica violenta, che utilizza un repertorio o archivio, nel senso di Foucault, cioè un repertorio di luoghi e di stereotipi antiebraici, tra cui l'idea del complotto ebraico, l'idea della divinità degli ebrei, eccetera, eccetera. E ho cercato di sostenere anche in questa audizione che quando la critica a Israele si rifà a stereotipi antiebraici, ad esempio dice che Israele non ha il diritto di esistere perché è il frutto di un accordo tra la lobby ebraica, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, questo argomento è squalificato dall'utilizzare un elemento della tradizione antiebraica. Quando la critica a Israele viene svolta in termini, ad esempio, della teoria dell'imperialismo o di altre teorie, da un punto di vista formale e contenutistico, non può essere considerata di per sé antiebraica perché non mobilita argomenti antiebraici, anche se poi bisognerebbe fare un'analisi delle intenzioni, perché uno potrebbe essere un antisemita e utilizzare degli argomenti non antisemiti per raggiungere il proprio scopo. Ma quello che conta è che la destra vuole fare, le destre vogliono fare un po' in tutto il mondo, visto che sono al potere, un uso appunto strumentale dell'accusa di antisemitismo per silenziare le critiche di Israele, convergere con le politiche del governo Netanyahu e diciamo allearsi in chiave islamofobica. Però non significa che il mondo arabo non abbia responsabilità politiche per le condizioni dei palestinesi, che componenti del mondo palestinese, tra cui in primo luogo Hamas, non abbiano responsabilità gravissime e violente nella situazione che si è determinata e via discorrendo. Però io ho fatto l'esempio in questa audizione che si è tenuta i giorni scorsi degli Stati Uniti di Trump, dove Trump ha detto, per semplificare, Columbia è antisemita, quindi va chiusa, poi non tiene conto del fatto che il 50-60% dei docenti di Columbia sono ebrei e il 60-70% degli studenti che protestano contro Israele e a favore della Palestina sono ebrei. Questo ci mostra il paradosso, insomma, di quello che è comunque un uso strumentale dell'accusa di antisemitismo, indipendentemente dal fatto che ci sia questa presenza ebraica a Columbia. Questa accusa è stata avanzata verso Harvard, Brown e molte altre università all'università. È avvenuto anche in Germania che studiosi ebrei, spesso provenienti dagli Stati Uniti, ma non solo, siano stati silenziati e non sia stato consentito loro di parlare perché critici di Israele. E questo ha portato al paradosso che la Germania ha censurato studiosi ebrei nelle proprie università, togliendo loro la parola, teorie in difesa dell'antisemitismo. Questo rischia di avvenire anche in Italia se questi provvedimenti, che hanno natura parzialmente diversa, venissero adottati, come è possibile che avvenga, perché l'anzi centrodestra ha i numeri per farlo e potrebbe godere del sostegno del centro e di una piccola parte del centro-sinistra. Il senatore Delrio, che ha presentato una proposta su questo, appartiene al PD. Tutto questo, il massacro a Gaza in corso, i disegni di legge sull'antisemitismo, la memoria come categoria storiografica, ci fa interrogare in quanto appassionati e studiosi di storia su cosa ha rappresentato il 7 ottobre 2023. Una domanda che abbiamo fatto anche a Simon Lewis-Sullam. Il 7 ottobre ha presentato una frattura per l'Occidente, per il mondo ebraico, per chi si occupa di storia ebraica, di storia dell'antisemitismo e poi anche naturalmente la ritorsione israeliana, la violenza dell'azione militare israeliana e di tutto quello che sta ancora succedendo e ha portato, mi porta ad interrogarsi quotidianamente su quello che sta avvenendo, sulla tragedia in corso, interrogarsi su quello che avviene lì, ad interrogarsi su quello che avviene nel discorso pubblico italiano e internazionale, quello che avviene nel paradigma della memoria, che cosa significa genocidio, che cosa significa olocausto, come devono essere messe in prospettiva queste vicende, che tipo di rapporti possono essere stabilite nell'ambito appunto della memoria, del ricordo e che tipo di risposte possono essere date a azioni politiche che prendono corpo nelle società europee o occidentali in genere, come questa offensiva legislativa e poi politica di cui abbiamo parlato per gli Stati Uniti, la Germania e ora anche l'Italia. E quindi da storico, da cittadino, anche ovviamente sensibilizzato dalle mie origini ebraiche, benché assolutamente laiche, ma sia la mia coscienza personale che la mia coscienza di studioso, è stata spinta ed è spinta quotidianamente a porsi delle nuove domande e a cercare delle risposte, in parte a cercare di offrirle. Io ho scritto diverse cose che trovate in rete in questi 2 anni, cercando di prendere posizione, ho firmato un appello contro la pulizia etnica, ho promosso diversi appelli quest'estate per il riconoscimento dello Stato palestinese, ho promosso con altri l'appello contro i diversi disegni di legge appunto che identificano antisemitismo e critica a Israele, quindi c'è stato un tentativo di dire delle cose che non sono un modo di parlare a Netanyahu, ma sono un modo per parlare almeno all'opinione pubblica italiana, manifestare un pluralismo all'interno del mondo ebraico, cercare di offrire degli strumenti di flessione indipendentemente dall'appartenenza alla società civile e anche all'accademia. Io sono fermamente contrario al boicottaggio delle università in generale, e in questo caso delle università israeliane, e quindi non condivido la scelta di diversi miei colleghi e amici, perché ritengo che l'università debba essere un canale che cerca di mantenere pensiero critico e un dialogo. Diciamo, la parola stessa università significa universitas. Sono anche favorevole a un boicottaggio al limite economico e a sanzioni economiche come sono avvenute in Sudafrica, ma penso che se gli intellettuali, gli studiosi, gli studenti e i ricercatori smettono di parlarsi, diciamo, abbiamo fallito come comunità intellettuale e scientifica. Dopodiché ci possono essere degli ambiti molto specifici della ricerca universitaria o israeliana o congiunta italiana-europea che riguardano la sfera militare, che certamente io critico, ma chiudere la porta alla possibilità di dialogare, secondo me questo è un errore che si ritorce contro entrambe le parti. Ecco. Tant'è che ho invitato a Ca' Foscari, e dopo averli incontrati e intervistati per il manifesto assieme a una collega, Bashir Bashir e Amos Goldberg, che hanno scritto questo libro uscito anche in Italia e in America, si chiama Holocaust and Nakba, e quindi questa possibilità di invitarli, dialogare con loro, come è avvenuto racconto nelle pagine manifesto sulla base di un incontro che c'è stato a Forlì, è possibile solo se non vi è boicottaggio, perché altrimenti queste persone non possono esprimersi e non possono quindi esprimersi alcune delle voci più radicalmente critiche dell'establishment israeliano all'interno della società israeliana. Tacitarle e non consentire loro di parlare indebolisce qualsiasi possibilità di cambiamento. Ovviamente il cambiamento non viene solo dall'università, ma anche gli intellettuali possono avere un loro ruolo sul piano della riflessione e della critica politica, ecco. E con questa riflessione su cosa si può fare quando si parla anche di storia, vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima puntata. Fare storia ai tempi del genocidio a Gaza è un podcast di Van Loon, il programma di storia di Radio Città Fujiko. Si ascolta sul nostro sito radiovanloon.info, sul sito della radio e sulle piattaforme podcast.